sente fuori. Aspetta. Vuoi un bicchiere d'acqua vicino? C'è il divino. Era meglio. Acqua. Questi giovani infernano. Ah, giovani, grazie. Ci sentono? Non credo. Un pochino sì. Ma con questo bicchiere lì, ma che è? Non c'era altro di dentro. Ma c'è di dentro! No, c'è di dentro! Levo l'audio. Ah, scherzo, dai. Non lasciare. No. Ma... no! Ma semmai dopo, dai. Sai, ci sentono? Sentite? Buonasera. Buonasera. Non ci avevate nient'altro da fare? D'altra parte. Siamo qui per presentare questo disco. No, non si sente questo. Abbiamo dei problemi tecnici, mi sono ripreso per questo sistema. Ora sentite? Allora, siamo qui per presentare questo disco, peraltro bellissimo, che dopo l'incontro, dopo la musica, Bobo firmerà qui dentro e che potete trovare, come vedete, per caso in questo negozio lo potete trovare. Ne trovate giusto qualche copia qua dentro disponibile. Musica e chiacchiere. Cominciamo con una chiacchiera. Va bene, sì, sì. Tirate anche oggetti, quello che vi pare. Tanto c'è il vetro. Qua no. Nel 1980 Ciampi è morto. E tu eri poco più che un ragazzino. Lo conoscevi già oppure lo hai incontrato come artista più tardi nella tua carriera? La due. Allora quando l'hai incontrato? E com'è stato questo incontro? L'ho incontrato con zii di amici che mi hanno regalato un disco. Insomma, così poi ho cominciato a 25 anni a entrare, diciamo, in questo turbinio. Che la vita non è facile, che il vino aiuta, la T puntini finale A la migliora parecchio, e quindi insomma Ciampi te lo puoi inciampare su Ciampi e poi perché no cantare le sue canzoni. Non è una diciamo immedesimazione, diciamo, perché francamente preferisco molto immedesimarmi, ma c'è la nostra grande, come al solito, diciamo, la fica è anche più di un altro tipo, diciamo, cioè, girano più soldi nel mio sogno, sto scherzando, ma quindi ho deciso di fare questo disco anche per diffondere le canzoni di Ciampi anche ai più giovani, anche oggi c'è tanto rap. Magari poi fossi dentro, ci fossi nato col rap, potrebbe piacermi anche a me, però musicalmente faccio fatica. Ecco. Ciampi scriveva poche frasi, però molto ben scelte, centellinate, arrivavano al cuore. Insomma, le parole scritte bene fanno in modo che tu possa ripensare che hai un cuore, un'anima. E quindi il poeta in fondo è colui che aiuta, è colui che conforta, è colui che ti fa vedere il lato anche che in questo si salvi chi può odierno, tendiamo a dimenticarci. Senti, secondo te ha influenzato e quanto la musica italiana di oggi, Ciampi? Forse influenzato no, però è un gran modello di. Forse è l'unico cantante italiano, diciamo, che cantava gli ultimi da uomo ultimo. Ecco. Per esempio, se ascoltiamo De André, canta gli ultimi, però non era un ultimo, insomma, era come se vivesse in un gran palazzo, no? Comunque. Ciampi probabilmente ha sempre rifiutato queste terre da 5 stelle, questa voglia pazza comunque di andare fino in fondo, con la coerenza di dire cose e poi vivere una vita anche libera dall'offuscamento della ricchezza, ecco. Quindi alle volte si parla di lui come un maledetto, come un uomo che ha sofferto. Io invece immagino anche che si sia divertito molto, perché emozionare gli altri è una grande conquista, anche perché poi emoziona te e comunque nel tuo percorso trovi gente che ti vuol bene. Non mi pare poco. Ecco, no. Quindi anche Petrolini diceva: e se alla mia morte qualcuno continuerà a parlare di me, ve pare poco. Infatti, quindi su questo Ciampi ha vinto, perché insomma chi inciampa su Ciampi poi un po' trova il modo di risentirlo, anche perché comunque la vita è anche un percorso malinconico, triste, per quanto ci vogliamo far credere che essere un po' giù e lo vada sfigati, ma insomma io proprio alle volte diffido di quelli che ridono sempre, sono sempre felici, anzi proprio mi sembra tutta una finzione. Poco credibili. Sì. In cosa lo senti vicino a te, in cosa lontano? Lo sento vicino perché vabbè, mi piacciono proprio le canzoni, mi piace quello come scrive, mi piace quello che vuol dire, ecco. Forse questo disco l'ho fatto anche per essere un tramite per arrivare a lui, insomma. Oggi ci stiamo scordando troppo cos'è il senso della compassione, il senso, insomma, di... Alle volte stiamo andando verso un mondo che ci ricordavamo sempre quella frase, quando nelle grandi città americane uno cade in terra, nessuno che si ferma. Purtroppo stiamo andando verso questa americanizzazione, non lo so. Ciampi era uno che insomma lottava contro ciò, lottava contro la guerra, lottava contro le ingiustizie, cantava le più deboli, cantava le sue storie d'amore così fino in fondo, spudoratamente, sfortunate, vabbè. L'amore alla fine è anche un meraviglioso errore, cioè, c'ha una durata che è la sua, poi finisce. Ecco. Forse Ciampi aveva il coraggio di accettare la fine, cominciare un'altra storia, oppure raccontare il dolore di vedere una donna che se ne va, proprio anche quasi come fossero storie, piccole storie di cinema, con orchestrazioni bellissime. Questo disco non ha tante orchestrazioni, è un pianoforte, una tromba, una voce. Infatti è un doppio e costa nemmeno 20 euro. Abbiamo speso poco per farlo. Cioè, in mezzo è un disco delle canzoni di Ciampi che la Sony ha voluto tirar fuori, perché volevano fare una commemorazione dell'opera di Ciampi, ma mi ci hanno messo me nel mezzo, siamo tutti e due, ma non sono poi responsabile di quello, meno mi vedo meglio sto, perché non, uno se gli piace, bene, se non gli piace, va bene lo stesso. Senti, se dovessi scegliere una canzone di Ciampi che lo rappresenta, che rappresenta bene il Ciampi poeta, il Ciampi artista, secondo te qual è quella più rappresentativa? Non lo so, ci sono tante belle frasi, forse vabbè, dipende dal momento, insomma me ne piacciono diverse, ecco, che so, il vino è una grande canzone, oppure anche tante più, te lo faccio vedere chi sono io, ecco, quando tira fuori anche quel suo caratteraccio livornese, così... E gli piace rovesciare i tavoli, mandare tutti a fanculo. Forse la canzone che più lo rappresenta è proprio Adios, che manda, insomma, quel paese, questa donna che non lo vuole più accanto, probabilmente l'ha deluso perché non ha portato abbastanza soldi, non è stato, diciamo, abbastanza, tra virgolette, borghese. Però ci sono delle frasi comunque molto, molto belle, che sono: rossastro sulla strada e un gatto se lo mangia, tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicino? No, ma vaffanculo. Questo è il Ciampi, diciamo, che non, che ovviamente se lo proponessero nelle scuole sarebbe una grande scuola, ma la scuola è fatta apposta per essere brutta e per fare in modo che i ragazzi scappano e vadano a conoscere culturalmente il mondo con la propria esperienza. Senti, c'è invece una canzone tua dove è forte l'influenza di Ciampi? Non lo so, non c'ho mai pensato, probabilmente tante, però non è che io a tavolino abbia pensato via ora metto a fare Ciampi, perché quando sono solo in casa, a dire la verità, allo specchio mi piace più You call on a tram, I can work because I love you. Posso dire Elvis, non è che Ciampi è un passato, sta lì un'esperienza sottofondo. If I was born in Memphis, you know, I was made, I thought I would make a record about Elvis Presley. Se ero nato a Memphis facevo un disco su Elvis, ma essendo nato a Livorno è fatto su Ciampi. Probabilmente ammetto anche che il fatto è mi fanno paragone comparano, mi comparano a Piero Ciampi, quindi volete lo faccio, e allora ve lo faccio, basta che mi fate arrivare a fine mese, cazzo. C'è pure questo senso comunque, perché Ciampi diceva, Ciampi non è mai stato un grande famoso, quindi vabbè, qualche soldo l'ha preso, ma al primo anticipo prese i soldi e se ne andò in Irlanda con questa donna che poi sposò, rubando proprio ai discografici, molto prima dei Sex Pistols. I Sex Pistols hanno fatto la grande truffa, Ciampi nel 63 fece questa truffa, quindi anche un precursore del punk. Lui diceva del fatto di non essere tanto famoso che aveva questo grosso vantaggio: se una sera mi gira coglioni e non c'ho voglia di andare a cantare, ci mando un altro che gli ho insegnato tutte le canzoni, così poi si divide il bottino, cioè volete più fortunato di me. Ecco, probabilmente ora io in questo caso sono colui che canta le canzoni di Ciampi, la SIAE va alla famiglia Ciampi, quindi gli altri ovviamente vengono a vedere me e quindi dividiamo il bottino. Quindi c'è una canzone di Ciampi che dice: Tu Merlo, cantami una canzone da portare all'editore perché sono senza una lira. Nel mio caso, tu Piero, prestami una canzone da far sentire allo spettatore perché sono senza una lira. Così. L'anno scorso... Grazie. A meno male ride lei, perché tutto il tempo che ha detto il commissariato vestito come Titti, questo mi guarda e non ride mai. Mi scusi, però diciamo, bisognava conoscerci, perché non si sa mai. Se... Il fumo l'ho finito, però non si sa mai. Ci vuoi cantare? Magari canto, basta. Allora... Visto che lei è commissario del fatto scritto, non credo. Certo, veste in un modo che secondo me, cioè, si nota parecchio. Secondo me lei non c'ha un amante in questo periodo. C'è proprio... c'ha sua moglie. No, oppure lo fa apposta per far vedere, guarda, non c'è nulla da nascondere. Poi magari è di quei giubbotti che si girano e diventa grigio come l'asfalto, si nasconde. No. Mi scusi, mi sentivo. C'è una canzone che praticamente per una delle più immediate è un inno, diciamo, a questa cosa, insomma, dice che alla salute. Dice che ancora si può fare e io bevo, va. E si chiama il vino, appunto. E com'è bello il vino, rosso, rosso, rosso, bianco è il mattino, sono dentro un fosso e al di là della vetrina saluto la bambina, lei abbassa un po' la testa e si vergogna un po'. E come bello il vino, bianco, bianco, bianco, rosso è il mattino, sento male a un fianco, vita, vita, vita, sera dopo sera, fuggi tra le dita, spera, mira, spera. Si è capito, cioè, la può cantare, basta. Prego, se vuoi fare un'altra canzone. Ma fare un'altra canzone, vabbè. Oppure dopo, se no vuoi, se ti faccio un'altra domanda. Sì, è quello stesso, quello ti pare. Senti, una mia curiosità. Sì. L'anno scorso cantavi Carnevali, sì. Parlavi di Carnevali. Quest'anno di Piero Ciampi. Due figure comunque poetiche non conosciutissime. Ci saranno altri recuperi di questo genere in un futuro prossimo? Potremmo sperare di scoprire altre figure attraverso le tue canzoni? Attraverso anche la vita degli altri. La vita, sì, degli altri. Non c'è anche niente di male, comunque l'ha fatto anche De Gregori. No, Dio mio, è una delle cose. Anzi, lo volevo fare io, poi mi telefonò, mi disse, vabbè, sto facendo io, non lo fare. La posso fare tua? No, le mie non le fai, allora farò Ciampi, ecco. No, scherzo. Però che so, a me piace proprio il mondo delle canzoni belle, no? Le mie stesse a volte mi sembra un po' difficile capire se sono belle o brutte. Nel mio intimo a volte mi piacciono, dopo un paio di litri di vino non è tanto male, però in genere avendole proprio concepite, insomma, sono come si fa, a una madre gli piace il figlio, ma anche ce l'ha sulle scarpette. Allo stesso tempo non sai quantificare la bellezza di una cosa quando l'hai partorita. Quindi che so, mi va di cantare una canzone di un altro che prima o poi mi piacerebbe. Comunque nello spettacolo di Ciampi mi piace anche cantare una canzone, per esempio, di Enzo Iannacci, che secondo me era un assoluto poeta grottesco, romantico e tragicomico. È? E tragicomico, sempre uno a cercare gli ultimi. La canzone è Io e te. Io e te che ridevamo, io e te che sapevamo, tutto il mondo era un bidone da far rotolare, sì, sì, perché la bellezza dei vent'anni e poter non dare retta a chi pretende di spiegarti l'avvenire. Poi lavoro, poi l'amore, si va qui, che l'amore si fa in tre, che lavoro non ce n'è, l'avvenire è un buco nero in fondo al tram. Si va allora, ma che gioventù che è, ma che primavera è, e la tristezza lì a due passi ti accarezza e ride lei. Sì, ma qui che l'amore si fa in tre, che lavoro non ce n'è, l'avvenire è un buco nero in fondo al tram. Sì, ma allora, ma che gioventù che è, ma che primavera è, e la tristezza di a due passi ti accarezza e ride lei. Effetto di disco, senti il chero. Tornate all'analogico, tornate all'analogico, sentite la puntina. Le micchiati, sì. Beh, vabbè. Però quando sono solo in casa, lo ammetto. We're caught on a trap. I can work out because I love. Questa gamba ormai va da sé, ragazzi. Ecco, queste sono le canzoni che sono talmente odierne che fanno quel male utile per cominciarsi a chiedere: Madonna, come si sta male fra tutti? Perché se non si distribuisce un po' le ricchezze, il mondo proprio è parecchio alla frutta. Tutto lì mi sembra poi più semplice. Non considerare che 1,5 milioni di profughi sono lì e non li fanno entrare. Mi sembra dovessi scegliere tra rinascere uomo in quel modo lì o cane, firmerei per diventare gatto. Quindi c'è bisogno di riportare con certe canzoni alle volte a quel sentimento, per quel senso di dire: ma mi posso immedesimare sulla vita di qualcun altro, sempre solo la mia, solo la mia. E più poi c'hai soldi, più alle volte rischi molto di essere offuscato dalla tua vita, da tutte le tue minchiate inutili. Stai avendo un riscontro quando sei in giro a cantare? Io ho preso freddo, quindi c'è una spiffera. Ma scusa, ma mi è venuto a botte le parole, una demenzialità anche, forse. Sì, è giusto. Un riscontro di pubblico. Sì, di... sì, perché io penso alla gente piace qualcuno che prova ancora a sentire. Forse probabilmente anch'io sono morto e non sento più, però ormai per deformazione professionale tutte queste belle parole mi suonano dentro, mi suonano nella testa, son come uno che fa sempre film, alla fine se fa il pistolero, poi invecchiare diventi pistolero, quindi ho notato comunque che alla gente piace venire a teatro, avere anche momenti di commozione, che sono importanti, perché nella commozione, anche se uno non esterna le lacrime, forse ancora di più, dentro sé ritrova quel camino che si riaccende, ecco. Non c'è solo bisogno proprio di far baldoria ubriacarsi con sostanze illecite. Un bel fiasco di vino è sufficiente, sì. Vuoi fare un'altra canzone? Parte in automatico. Che poi effettivamente pensiamo, no? Piero Ciampi ha fatto una vita disastrata, e di qua e di là non gli davano soldi, mangiava cibo per cani. Alla fine un po' effettivamente sì, però penso abbia passato anche delle nottate bellissime, no? Elvis Presley è morto a 42 anni, 5 prima di Ciampi, e poi magari è sempre stato poveraccio, anche lui sempre sotto riflettori, non fare questo, non andare di là. Quindi alle volte pensando a queste due vite dici, ma chi è il maledetto? Esatto. Perché chiamo maledetto? Maledetto poi è colui che poveraccio va a lavorare in miniera, come il mio nonno morto di silicosi, come il mio babbo che non ha visto la pensione, come la mia mamma che a 13 anni lavorava come una schiava e gli davano anche fastidio i proprietari terrieri, no? Roba. E quindi canterò una canzone per mia mamma. Questa è una canzone che non è solo per la mia mamma, ma è una canzone per tutte le mamme di un certo tipo. Mi alzerò e ti vedrò sonnambulo, con lo scialle sulla tua vecchia poltrona, a finire croci verba e quelli facili, fa rientrare la mattina con la spesa, borbottando vagabondo era di alzarsi, per poi sventolarmi in faccia un'altra muta. Vai, vola via, tienimi dentro, come hai sempre fatto quando ero qui con te. Negli ultimi tuoi giorni, quando andavi, raccontavi il tuo dolore della vita, 13 anni a lavorare come una schiava, il padrone del potere importunava, come bestia era chi non possedeva, quasi fosse una tua colpa da nascondere. Vai, vola via, tienimi dentro, come hai sempre fatto quando ero qui con te. Poi ti vedo col giornale cittadino, con la foto di tuo figlio che cantava, che ascoltavi quando io non ero in casa. Se ti sogno so che in cielo sei accudita, sono stato nel tuo grembo nella vita, del tuo grande amore l'anima riempita. Quella pace che io Lascio la scena. Senti, ce l'ho qua dietro. Non sono nemmeno mai passato a vedere le donne in vetrina, anche perché ero in compagnia, diciamo, di una fidanzata a Amsterdam. E non era il caso, no. Era gentile. No, non è fatto gentile, la curiosità ce l'avevo. Però se lei mi scoppiava lì, che gli occhi mi partivano tutti, così, era quella paura lì. E, no, è chiaro che non è una cosa così bella, ecco. Però a me una donna non mi ha nemmeno mai pagato una cena. Ora vorrei un po' di... sto scherzando, sono discorsi che vanno a parlare. Che ci vogliono? No, parlare così nel nulla. Comunque la prostituzione, se fosse regolata, se una donna che si vende si prende tutti i soldi, non è un fatto per niente grave. Cioè. Alla fine sono scelte, no? Non è che sono. Sì, appunto, voglio dire. Se in mezz'ora tu guadagni come basta che. La legalizzazione di certe cose porterebbe più gioia, tranquillamente. È un discorso difficile questo. No, però insomma, no, facciamo perdere. All'estero già. Hanno un'alta mentalità. Appunto. Nell'introduzione del disco, te hai scritto che la poesia di Piero Ciampi è il sacrificio dell'artista che si racconta uomo fino in fondo in elevatura spirituale altissima di Idee Francescana. Ce lo puoi spiegare un po' questo concetto, che peraltro sta qui dietro di me, così. Francescana. Questa parola qualcuno ha detto non era francescana, perché vabbè. Beh, è una scelta, no? Anche questa si diceva scelte. Hai scelto la parola francescana. Vabbè, perché? Perché? Cioè, cosa significa? Perché questo San Francesco, Francesco San, secondo me. O Francesco semplicemente era un uomo comunque che sfidava veramente alla fine i ricchi, no? Lui stesso ricco si spoglia di tutto, si dona completamente al Vaticano di allora, no, ovviamente non piaceva tanto. Beh, quando il Papa gli disse, per lui volle andare a incontrare il Papa, visto che comunque era diventato una forza questo San Francesco, perché reclutava ladri che diventavano francescani, cioè trasformava i lupi, no? in animali tranquilli. E quindi il Papa lo ricevette e gli disse semplicemente a uno vestito così, io posso solo dire vai a predicare ai porci. E San Francesco andò dai porci, si rotolò nella merda dei porci e poi tornò dal Papa dicendogli ho fatto quello che mi avete detto di fare. Quindi già questo grande gesto, poi faceva grandi performance Francesco, a volte confondiamo, insomma Francesco secondo me è un guru al di là proprio dell'esistenza di Dio, perché per Francesco Dio è tra gli uomini, ecco, poi alla fine chi se ne frega se te ci credi, non ci credi, cioè c'erano tutti. A me mi sembrano tutte favole queste religioni, ognuno ha la sua favola, per quella lì senza far l'amore è rimasta incinta, cioè se la dici in un contesto diciamo diverso, se tipo ti portano via, e probabilmente giustamente, questo c'ha bisogno delle cure, cioè ma c'ho la fede, ma la tua fede però è proprio bella la tua fede, ma vivi la religione, il religioso silenzio, per favore non mi rompi i coglioni a me che mi garba la topa, per esempio. Cioè, mi garba la topa cosa vuol dire? Che alla fine è proprio lì, la divinità è questo unirsi, uomo e donna, e nascano bambini, ecco, invece in nome di Dio spesso fanno le guerre e ammazzano bambini, quindi dove sta Dio? Sì. Cioè, mi ci prende un po' questa idea, ecco. E Piero Ciampi è vicino a questo modo di essere perché senza paura si regalava completamente, come Don Chisciotte anche, cioè regalava tutto se stesso, con anche delle frasi enormi che non torni più indietro, perché ha tutte le carte in regola per essere un artista, come un irlandese, se incontra un disperato non chiede spiegazioni, divide la sua cena con scrittori, monchi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, pittori ciechi. È uno che si dà completamente, ecco. Quindi Ciampi in questo è andato fino in fondo, e perché no fare un disco con le sue canzoni? Inciampate anche voi in Ciampi, così assaporerete un po' di mare, di quello bello, di quello vero, perché luoghi di mare alle volte hanno più, sono più vicini a quel senso della condivisione, della compassione. E gli antichi abitanti nei luoghi di mare partivano per pescare e probabilmente forse non tornavano alle volte, quindi i figli erano di tutti, ecco. E in Ciampi si sente questo respirare il mare, nient'altro. La compassione quindi torna sempre, come sempre. La compassione non vuol dire compatire, non vuol dire provare pena, vuol dire condividere la passione con un altro, non è pietà, compassione. Quindi l'ho fatto pena. Grazie. Direi di no. Grazie a tutti, arrivederci e grazie. Io direi che comprate questo last song, si finisce con l'ultima canzone. L'ultima canzone è... vi voglio lasciare un po' anche in allegria, perché no? Adios. No, ma tanto nel disco, non lo so. Non ci sono richieste, perché ci vuole il pianista, ma siccome non lo vogliamo, dici col cavolo vengo a suonare il piano. Vabbè, tutto così. Canto una canzone di Ciampi. Alzi la mano chi vuole Ciampi. Vediamo, alzi la mano. Una mia? Sì! Luna, tutte e due, tutte e due, tutte e due. Allora faccio una mia che me la ricordo più facilmente. È una canzone leggera, sull'idea un po' di cosa può essere l'amore. L'amore comincia, siamo tutti appassionati, poi si va in una sorta di limbo, poi si passa un inferno per dirci è finita, non possiamo più stare insieme. E comunque questo è un po', alle volte è il giro paradiso, limbo, inferno, e poi riparadiso con la prima che incontri per strada, come diceva un altro. Gran fregatura l'amore che dà sempre il meglio di sé. La vita torna a quel che è, che palle stare insieme a te, che mistero non so che l'amor che fa sembrare il mondo in fior, e poi marcisce e ritorna a quel fetor, la spazzatura del bidon. La testa tra le nuvole, il mondo rimbalzabile, si vive in paradiso in stagione. Nel limbo poi si torna di nuovo nel grigior, e poi che lungo inferno uscirne fuori. Che intrigatura è l'amore che dà sempre il meglio di sé. E dopo un po' la vita torna a quel che è, che palle stare insieme a te. Il paradiso che vedo in sogno è stare nudo dentro uno stagno, tra donne nude che fanno il bagno, e poi o in un cortile tra le sottane pane e prosciutto, vino e salame, o in una barca in mezzo al vento col movimento. E Cristi e Santi e crocefissi e le Madonne coi volti tristi, no grazie tante, tenetele per voi, tenetele per voi. Il paradiso è in una stanza dove si beve e poi si canta, tutti felici, senza famiglia, e poi champagne dalla bottiglia. Vescovi e preti, non vi arrabbiate, pure le suore sono invitate, ma quelle racchie, no grazie tante, tenetele per voi. Arrivederci, ho avuto piacere. Ovviamente in una città come Lucca viene voglia di essere anche un po' anticlericali, se no. Dai.